Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Benvenuti e benvenute a questa puntata di Mebius. Ciao Chiara. Ciao Federico, buonasera a tutti. Come andranno le cose quest'anno? È Mebius che ve lo racconta con le sicurissime, certissime previsioni astrologiche. E poi, torno indietro e uccido il nonno. No, non sono una serial killer, ma andremo a teatro, al Teatro Scienza. E infine, un archeologo italiano, famoso, grande, che ha vinto il premio Balzan, ci dice come, secondo lui, dovrebbe lavorare l'archeologia. Partiamo dall'astrologia, allora. Però Astra, che dovrebbe essere, adesso non l'ho ancora preso, in edicola adesso, la copertina d'oro, di solito è abbastanza scientifico. Cioè, io mi dissocio da questa affermazione. No, ma non va, cioè ci sono degli anni che pesta giù duro per certi segni. Sì, Non è accondiscendente, non è appiattito. Va bene, che sono sicura che il nostro ospite insieme a me si dissocerà dalle tue affermazioni, va che beh, in realtà so perfettamente che non condividi nemmeno tu. Ma no, c'è sempre bagarre nella scienza. Allora, intanto salutiamo Stefano Bagnasco. Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera Vanessa. Allora, lei coordina il gruppo di studio sull'astrologia del CICAP. Il CICAP, lo ricordiamo, è stato presente a Mebius tante volte, il Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze, e come ogni anno il CICAP si occupa di fare un'indagine, a mio avviso molto interessante, su quelle che sono state le previsioni per l'anno precedente, quindi in questo caso del 2014, sugli astrologi. Insomma, chi ci ha preso, chi non ci ha preso, erano vere, ci hanno azzeccato e così via. Eccola. E Stefano Bagnasco, che in realtà nella vita fa il fisico all'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, coordina questo gruppo. Avete fatto l'indagine e che cosa è venuto fuori? Ah, è venuto fuori quello che viene fuori tutti gli anni, e cioè che intanto che la stragrande maggioranza delle previsioni che fanno gli astrologi non sono in realtà previsioni, sono delle affermazioni molto vaghe, molto... Che vanno bene un po' per tutte le stagioni. Sì, studiatamente. Per cui, insomma, poi come fa uno andare a verificare se sono avverate o no? È un po' come, diciamo, spesso tirare una freccia e poi disegnerebbe fraglio intorno. A posteriori è sempre facile trovare una giustificazione per cose tipo sarà un anno in cui succederanno cose meravigliose. Qualcosa di meraviglioso succede sempre al mondo. A volte no, ma insomma... Però le frasi del tipo sarà un anno con alti e bassi, ecco, questa è una frase che si legge molto. Qualche volta anche usando queste frasi però non ci si prende tanto. Per esempio, aspetta che ne abbiamo una trovata. Ecco, per esempio, Grazia Mirti, che è un'astrologa, parlando dei mondiali di calcio, ha detto che l'Italia sarebbe stata senza infamia e senza lode. In realtà, che è sempre abbastanza vero, in realtà siamo usciti, mi pare, al primo turno. Quindi è stata senza lode e punto. È stato un disastro, quindi, sì. Nonostante la prudenza, è andata male anche quella volta lì. Allora, voi avete fatto un'indagine chiaramente divisa per tematiche, e infatti ci sono alcuni astrologi che fanno delle affermazioni piuttosto precise, cioè vincerà il campionato, vincerà Sanremo, molto si dice anche sulla politica, sullo sport, sullo spettacolo. Mi sembra che uno che non ci prenda mai sia il Divino Telma, mi sbaglio? Il Divino Telma ogni tanto si sbilancia abbastanza, è divertente perché lui si veste come una specie di vescovo e parla sempre al plurale, però non ci azzecca granché, insomma. Mi sembra che abbia completamente non azzeccato il vincitore del Festival di Sanremo. Lui aveva detto Francesco Renga, invece è arrivato quarto. A Risa, se non sbaglio. Esatto. Anche lì un'altra invece aveva detto che avrebbe sicuramente vinto qualcuno di un segno d'acqua, e se i segni zodiacali si dividono in terra, aria, acqua e fuoco, i segni d'acqua sono Cancro, Scorpione, Pesci, e a quanto capisco ha vinto Arisa, che è del Leone, quindi neanche quello. Hotel, ma si era sbilanciato sulle elezioni di maggio, le amministrative di maggio, indicando un distacco massimo del 5% tra PD e 5 Stelle. Un disastro anche qua. Del 20% in realtà. Quindi è sbagliato di 4 volte quasi, insomma. Sì, vabbè, insomma, sulle percentuali non ci siamo proprio. Poi anche non pensava che il governo cadesse nel 2014, parlando del governo Letta. Si potrebbe utilizzare al contrario, insomma. Quello che dice non succederà. No, poi ho scoperto, perché diciamo non mi occupo mai di questa tematica, che una certa Teodora Stefanova riceve informazioni da Unilsan, che è un'entità aliena del pianeta Van Fim. Sì, questa è una simpatica signora bulgara che ho anche conosciuto un po' di tempo fa, e questa è divertente perché fa un sacco di predizioni, anche tutte abbastanza verificabili. E questo è un altro sistema molto, molto comodo, no? Se uno prevede tante cose, qualcosa... è difficile sbagliarle proprio tutte. Certo, ne dice 100. Basta poi, se non ci siamo noi che andiamo a fare le pulci, basta poi far presente che quella lì l'ho indovinata e le altre, vabbè, pazienza. Per esempio, vediamo un po' cosa ha detto quest'anno. Ah sì, aveva indovinato, lei sì, aveva indovinato che il governo, che Renzi avrebbe sostituito Letta. Beh, questo vabbè, però non era banale. Senza specificare la data. Questo non era banale. Però aveva detto anche che Napolitano non sarebbe stato rieletto, Maroni avrebbe fondato un nuovo partito, il Presidente del Consiglio donna, Marina Berlusconi è entrata in politica, tutte cose che non sono in realtà poi successe. Prendono dei rischi, bisogna riconoscerlo, sono pazzi. Però... Sì, tutti. Però... Lei lo fa molto spesso, sì. Prendono dei rischi. Però alcuni molto probabili, ad esempio nel mondo del calcio, molti ci prendono, cioè, che ne so, il Milan acquisterà tal dei tali, il Napoli cederà, cioè... Cose che, sì, diciamo, mio papà, insomma, potrebbe predirtele. No, poi... anche lì è difficile. Diciamo sempre che questa indagine che facciamo non è una cosa scientifica. Perché? Perché uno dovrebbe andare a vedere, per fare una cosa veramente scientifica. Intanto bisogna raccogliere tutte le previsioni, non soltanto come riusciamo a fare noi, con i nostri mezzi limitati, una specie di campione. Ma uno dovrebbe anche andare a verificare, non tanto che non indovinano o che indovinano, ma che indovinano più di una persona che si informa e cerca di capire. Certo. Chiaro che se uno è esperto, io adesso non so ben tanto bene commentare perché non sono esperto di calcio, ma se uno è esperto di calcio qualche previsione ragionevole la può fare. Ecco, però senza sbagliarsi troppo. Senta Bagnasco, l'altro dato che dovrebbe essere indagato da una ricerca più approfondita, adesso non so se è il caso di investire in questa direzione, è anche quando le fanno, no? Perché prevedere che Renzi avrebbe buttato giù dal cavallo Letta non era una previsione facile. Se però uno la produce nella settimana in cui tutti i giornali stanno dicendo è questione di ore, Letta ormai bisognerebbe capire anche quello. No, certamente. In realtà, guardi, il problema che abbiamo in questi casi, di nuovo, è che non si riesce a fare una vera indagine scientifica perché queste previsioni verificabili, diciamo così, sono troppo poche per avere una statistica. Quindi, insomma, uno va un po' ad aneddotica. Quest'anno, però, proprio sulle elezioni... A occhio e croce si sono sbilanciati un po' più del solito. Infatti, gli astrologi, i previsori. Senta, a suo parere però, questi qui sanno perfettamente che presso un certo pubblico non hanno alcun credito. Però a me è capitato di trovarmi, per esempio, anche di recente in una cena con delle persone che non hanno una preparazione scientifica, ma sono fior di professionisti in altro campo. E lì, per esempio, è venuta fuori una di quelle classiche discussioni su gli influssi magnetici, quantistici, energetici che sono liberati, queste cose pazzesche che si dicono oggi, no? Mettendo insieme, si parla sempre di energie, no? E queste robe qui, però, la gente ci crede, c'è una fetta grossa di pubblico che ci crede. E allora in quelle direzioni, questa qui che dice che è in contatto con delle energie di un altro pianeta, allora la porta è aperta, no? Ma guardi, secondo me bisogna fare una piccola distinzione, cioè c'è una fetta di persone che non ci crede, estremamente scettica, c'è una fetta di persone che ci crede davvero e c'è una fetta di persone in realtà che ci crede in mancanza di informazione, cioè non ha un'opinione precisa, certo, difendibile, ma semplicemente non si è posta il problema, sente parlare di queste cose qui, dice boh, sarà vero. E questa è un po' la funzione che cerchiamo di avere noi al CICAP, di parlare a queste persone qui, cioè far presente, guardate, quando si parla di energie sottili non vuol dire niente. Però qui ci sono degli aspetti psicologici molto importanti, cioè in alcuni casi le persone che si affidano, come dire, agli oroscopi, agli astrologi, a queste, insomma, credenze di energie aliene e così via, magari sono persone che cercano in qualche modo la sicurezza o hanno bisogno di certezze. E allo stesso tempo c'è l'aspetto psicologico del dover dare delle spiegazioni a dei casi che magari sono fortuiti, a degli avvenimenti della vita normale, per cui magari poco prima avevi letto il tuo anno sarà meraviglioso, ti capita una cosa bella, ecco qua che davvero funziona. Un po' non c'è mai la controprova, un po' davvero il nostro cervello preferisce una spiegazione sbagliata a nessuna spiegazione. Il caso non è una cosa che siamo, che il nostro cervello non è disegnato per lavorare, per ragionare su eventi casuali, quindi si cerca sempre una causalità anche quando questa magari in realtà non c'è. E poi le faccio una domanda difficile, la vita è molto difficile, noi abbiamo bisogno di soprannaturale, no? In questo io concordo con quello che ha scritto Giorello, Giulio Giorello, filosofo della scienza, che certamente non crede agli altri. nastri, però in un editoriale sul Corriere ha detto però emotivamente hanno una loro funzione positiva. Ne abbiamo quasi bisogno. Ne abbiamo quasi io non mi riconosco tanto nelle battaglie violente contro queste cose. Secondo me intanto va ridimensionata un po' la cosa, nel senso che è vero che ci sono persone che fortemente credono in queste cose e che affidano decisioni anche importanti al parere dell'astrologa o della chiromante, ma tutto sommato non sono tante. Le statistiche ci dicono che ma qualcosa che sta tra metà e due terzi degli italiani legge un oroscopo con qualche regolarità, ma quelli che ci credono appunto sono una frazione piccola, la grande maggioranza le legge così, un po' per divertimento, un po' come andare da qualcuno che dice delle parole di saggezza molto generiche, tipo il cinese, ecco. Comunque produce un conforto, un'attenzione. Un conforto, un appoggio. È di gran moda tra gli intellettuali l'oroscopo di Bresni, quello sull'Internazionale, che è un altro posto dove si scrive con grande verve letteraria delle cose che non significano granché, ma sono divertenti da leggere. Ecco, usando, quello c'è tutto un aspetto. L'oroscopo un po' come una forma letteraria, come fosse un po' di satira netto, anche. Molto breve, c'è l'oroscopo. Va bene, grazie Bagnasco, davvero buon lavoro e grazie per il lavoro, insomma, che fate anche col CICAP. Compri Astra, arrivederci. Certamente, arrivederci e buonasera a tutti. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Torno indietro e uccido il nonno. Detta così, magari cambiando, ecco, torna indietro, uccide il nonno, potrebbe sembrare uno di quei titoli che purtroppo vediamo spessissimo nella cronaca di stragi familiari che sono troppe in questi ultimi anni. Invece è torno indietro, uccide il nonno. Sarebbe comunque una cosa non gradevole, insomma, sarebbe comunque un delitto, però certo, forse il delitto più strano che si possa commettere. E per parlare di questo possibile delitto ho qui con me questa sera Andrea Brunello. Buonasera Brunello. Buonasera, buonasera. Fisico ma anche attore, uomo di teatro, quindi già la cosa si sta complicando, perché non è che lei ha fatto precedentemente il lavoro di ricercatore in fisica e poi ha detto basta, non mi interessa più e passo al teatro. No, le due cose sono strettamente connesse e Torno indietro e uccido il nonno è il titolo di una pièce teatrale che incomincia a essere visibile qui a Milano da quando? Dal 13 di gennaio fino al 19 gennaio al Teatro Libero in via Savona 10 a Milano. Allora, senta, io mando un primo estratto perché ho visto un video della vostra pièce teatrale. Tra l'altro lei recita insieme a? Roberto Abbiati. Roberto... E la regia è di Leonardo Capuano. Esatto, tra l'altro Roberto Abbiati è un abile mimo anche. Ma comunque non diciamo troppo su questo. No. Sentiamo questo primo estratto. Il tempo. Campane che suonano, uccelli che migrano, primavere, inverni, anticipi, ritardi. Una grande zattera. Il tempo è un fiume sul quale viaggiamo tutti assieme, tutti uguali, democraticamente. Ogni istante è diverso da quello passato. Ogni istante noi non siamo più gli stessi. Il mio corpo dov'è? La mia mano non è più la stessa. I miei pensieri dove sono andati? Allora Brunello, ci dica qualcosa sul titolo e quindi sul contenuto di questa. Certo, questo spettacolo effettivamente racconta un'idea sul tempo che è un'idea scientifica. La scienza sta venendo a termini con questa idea che il tempo forse non esiste veramente. Siamo passati dal concetto di un tempo assoluto, il concetto del tempo newtoniano, al tempo relativo che è quello di Einstein. E adesso con la meccanica quantistica così anche evoluta, ormai si sta parlando di multiversi in maniera quasi giornaliera, quotidiana, insomma ci si sta chiedendo che cosa sia veramente il tempo. E noi viaggiamo all'interno di queste idee, lo facciamo in una maniera divertente, provocatoria, e in qualche modo il titolo è una provocazione, perché questa idea è un paradosso. Cioè, se io torno indietro e uccido mio nonno prima che nasca mio padre, allora la domanda è chi sono io E questo è uno dei motivi per cui molti fisici e anche molti filosofi della scienza credono che viaggi nel tempo, per quello che sappiamo noi adesso, per come concepiamo l'universo noi adesso, siano impossibili. O è possibile tornare indietro, ma è proibito uccidere il nonno, questa potrebbe essere una variante che però in termini fisici è un po' difficile da pensare. Oppure. Però io adesso faccio sentire un altro passaggio, perché c'è qualcosa che è abbastanza importante per introdurre il lavoro di ricerca che lei sta facendo, e dopo ce lo spiega. Sentiamo questo passaggio. Quando lei a un certo momento, come dire, si interrompe la recita e si rivolge al pubblico. È importante, interrompo perché voglio approfondire una cosa con voi, perché altrimenti è difficile capire come continuare. Cercate di seguirmi, L'entropia. Immaginate un mazzo di 52 carte differenti. Prendete due a caso dal mazzo. Quante combinazioni differenti potete ottenere? Vediamo, per la prima carta ci sono 52 combinazioni, per la seconda ne rimangono altre 51. Totale 52 per 51, 2652. Adesso vogliamo fare tre carte. Come si farà? Beh, con le stesse di prima, moltiplicato per 50. Totale 52 per 51 per 50, 132.600. Avanti a questo modo, quante mani diverse di quattro carte per la caso dal mazzo si possono fare? Facile, a questo punto 52 per 51 per 50 per 49, che fa quasi 6 milioni e mezzo, e per 5 carte il numero di prima moltiplicato per 48, che fa circa 3. Qui c'è una filastrocca che è molto divertente, ma lei sta parlando al pubblico, quindi sta cercando di dare una spiegazione di un passaggio della pièce teatrale. Allora, è in corso un esperimento, ci dica questo in conclusione. In questo senso, noi stiamo cercando di trovare un modo per raccontare la scienza, il lato umano della scienza attraverso il teatro. Siamo due clown in scena, un clown bianco e il clown Augusto, e noi giochiamo continuamente col pubblico, fra di noi. Io sono il nonno e in qualche modo continuamente mi chiedo perché non mi hai ucciso al clown Augusto. E ad un certo punto noi giochiamo col pubblico e li provochiamo. E nel fare questo lavoro siete in contatto con gente che fa ricerca, con gente che proviene appunto dalla cultura scientifica, ma si interroga su un modo di portarla al largo pubblico, per esempio con delle narrazioni teatrali. Sì, infatti noi collaboriamo molto strettamente col Dipartimento di Fisica dell'Università di Trento, che si occupa proprio di divulgazione, di come si racconta la scienza, di come si fa la pedagogia della scienza. Stiamo lavorando in maniera solida. Ecco. E poi diciamo che ormai sono quasi 3 anni che portiamo avanti questo progetto, si stanno aprendo delle strade molto interessanti anche con altre università, perché ormai in realtà questa idea di divulgare la scienza attraverso il teatro appartiene, diciamo così, al tessuto di diversi dipartimenti di fisica, perché io mi occupo di fisica ma anche di scienza, delle università più importanti. Va bene, senta, ricordo ancora, qui a Milano parte il 13 al teatro? Al Teatro Libero di Milano in via Savona. Va bene, abbia un po' di misericordia per il nonno e in bocca al lupo. Crepi il lupo e crepi, grazie. Crepi il lupo, arrivederci. Un mese fa sono stati consegnati a Roma i premi Balzano. Il premio Balzano è uno dei grandi riconoscimenti internazionali per la cultura. Quest'anno uno dei 4 premi è stato assegnato a Mario Torelli, un grande archeologo italiano ma riconosciuto in tutto il mondo per i suoi lavori. Abbiamo parlato con lui partendo da una tesi centrale di tutta la sua attività: il rapporto fra l'archeologia e il passato e il problema di interpretare questo passato. Sì, c'è un fatto quasi assiomatico della nostra cultura che dice gli antichi erano come noi. Non è vero, il che non vuol dire che non erano esseri umani, ma pensavano in maniera molto diversa. Il pensiero greco, per esempio, è un pensiero di tipo binario. E quando Socrate dice io capisco le cose per solo se ho l'opposizione tra il freddo e il caldo, tra il bello e il brutto, cioè, perché è una logica di tipo positivo. La nostra invece è una logica, diciamo, di tipo sistemico, per cui noi riusciamo a vedere delle cose attraverso dei collegamenti che ci portano sempre più lontano, sempre più lontano. Quindi, tornando a noi, il pericolo è quello di attualizzare e modernizzare, il che vuol dire una cosa molto semplice, che l'archeologia è una scienza storica e non è una scienza esatta, a parte che non esistono due tipi di scienze, la scienza è una ed sono tutte probabilistiche, ma il fatto fondamentale è che oggi, sotto la vittoriosa avanzata dell'estremo occidente, quindi del pensiero moderno non è di fatto in grado di distinguere modi di pensare molto diversi. Io le faccio un esempio. Da giovane, tra le varie follie che hanno contraddistinto la mia giovinezza, è stato quello di studiare e anche imparare abbastanza bene la lingua cinese. E i cinesi non pensano come noi, cioè la struttura del pensiero è diversa. Io sono fermamente convinto che l'elemento dirimente tra questo tipo di questo approccio e quello che è l'approccio in cui io sono cresciuto, in sostanza, è quello che l'archeologia è una scienza storica. Questo esempio sui cinesi ci dice che anche nella contemporaneità noi possiamo avere delle differenze. Certo, credo che l'inganno possa nascere dal fatto che, non so, se noi leggiamo certe lettere di Cicerone, sembra di leggere lettere scritte oggi da un personaggio importante, ma questo vuol dire che quindi il reperto archeologico, lo scavo archeologico, nel momento in cui scopriamo queste cose sepolte, però dobbiamo riuscire a interpretare rapidamente quello che si vede secondo questo concetto, se no si parte. Io ho sempre sostenuto che uno trova quello che già sa, cioè quando si scava certi fenomeni, se non ne conosco in maniera analitica origini, sviluppo, ricadute, eccetera, io non le vedo. Quando lei diceva, faceva l'esempio di Cicerone, io immediatamente ho detto benissimo, è vero, ma se lei va ad analizzare la logica senatoria romana di primo secolo avanti Cristo, ha molte affinità con quello del clientelismo attuale. Però la lettera scritta da Cicerone, intanto è scritto in uno stile, bisogna capire come nasce, perché lo stile epistolare latino è uno stile molto particolare che parla al passato, perché ci si immagina che chi riceve la lettera la riceve quando ormai quei fatti sono già trascorsi. Quindi nessuno si sognerebbe di scrivere una lettera come quella che scrive Cicerone. Se ci sono sette cose che coincidono e tre no, come per esempio la percezione del tempo, è chiaro che quelle tre contano molto, non sono cose da poco. Mi viene in mente che un fumetto degli anni 60 americano, in cui si immaginava uno scavo archeologico, un'era molto lontana da noi, di un motel degli anni, della metà del XX secolo, e non avendo i canoni interpretativi corretti, finiva per identificare come questo edificio un grande, gigantesco luogo di culto, dove c'erano i luoghi dove andavano a fare delle abluzioni i fedeli, che erano poi le tazze dei cessi, insomma, no? Però le chiedo questo: noi oggi abbiamo certamente ottenuto risultati importantissimi in tutte le scienze con questa capacità di verticalizzare, però una certa trasversalità che si è persa è stato un po' un guaio. A questo punto l'archeologo, che è specializzato in un'area estremamente precisa, storica, di una zona, però mi pare di capire quello che lei dice, è un personaggio che non funziona dal punto di vista delle cose che può ricavare, perché i greci e i romani si sono incontrati e la Grecia ha avuto rapporti con la Persia, quindi quella dimensione storica lì prefigura una preparazione dell'archeologo abbastanza diversa. Beh, il mio approccio è di tipo globale, non vedo i singoli fatti, quello che mi interessa è il tessuto connettivo di questi fatti con il resto della società, le mentalità, forme politiche, forme religiose, eccetera. Questo è essenziale per l'archeologo, cioè capire, o perlomeno secondo me, insomma, questo è evidente, mentre se sente altri archeologi di altra formazione ti diranno che la specializzazione, io sono nemico delle specializzazioni, ma feroce, infatti mi diranno, dice, ma lei è un archeologo etrusco? No, io sono un medico generico, no? Perché infatti nella motivazione che mi ha fatto ovviamente molto piacere leggere, mi si dà credito di grandi avanzamenti sia nel campo del mondo etrusco, del mondo greco, del mondo romano, cosa che diciamo dà un po' fastidio ad alcuni miei colleghi, che io non sia inquadrabile proprio perché c'è una ratio dietro, non è vaghezza, è, diciamo, mondanità di approccio, perché non si capisce il mondo romano senza quello etrusco, quello etrusco non si capisce senza quello greco senza quello orientale, insomma il mondo è uno. Credo di avere solo 5 secondi per dirvi buona settimana a tutti e a tutte, ci risentiamo qui fra 7 giorni.